There's just time before the coffee arrives for a few new words and phrases. Sì, ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e dopo ripeta. Cominciamo. Senza. Without. Senza. Il latte. The milk. Il latte. Bisogna. You need to. Bisogna. Un caffè macchiato. A coffee with milk. Un caffè macchiato. Ed ora ascolti il dialogo.